Il referendum nasce a Bologna consapevoli che, come avete ben inquadrato voi, anche la situazione, il tema del resto complessivo. Però è significativo che proprio a Bologna, che è stata all'avanguardia nella promozione della scuola pubblica dell'infanzia già negli anni 60, quest'anno nel 2012, nell'autunno 2012, ben 400 bambini sono rimasti esclusi dalla scuola pubblica dell'infanzia. Quindi si verificava il paradigma costituzionale rovesciato. Sappiamo che l'articolo 33 parla di diritto alla scuola pubblica per tutti, parla di libertà di insegnamento ma senza oneri per lo Stato. Qui a Bologna si verificava la Costituzione alla rovescia, nel senso che il diritto all'istruzione pubblica diventava un optional non garantito per tutti e nello stesso tempo la scuola privata assumeva degli oneri per lo Stato. A questo punto si sono messe insieme numerose forze della società civile, dai singoli cittadini ai sindacati, a associazioni di genitori, mondo della scuola, semplicemente perché ritenevamo che fosse fondamentale su un tema così importante, su questa direzione politica, che i cittadini potessero esprimersi. E quindi abbiamo proposto un referendum che chiede sostanzialmente ai cittadini bolognesi, in forma di un referendum consultivo, che è l'unico tipo di referendum che c'è nella città di Bologna, se ritenessero che continuare a dare quei soldi alle scuole private paritarie fosse la strada giusta per garantire il diritto all'istruzione o se al contrario non ritenessero che quei soldi di tutti dovessero andare alla scuola di tutti, che è la scuola comunale e statale.